Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mon cœur pleure. Bruxelles pleure, tout le monde pleure. Pourquoi? Pourquoi? Why? Perché? Perché? La risposta è in questa trasmissione del 12 febbraio, dove dopo sei mesi di puntate indimenticabili, oscene e paradossali, 100 città chiude oggi con un'ultima puntata rimembrativa di tutti i capoluoghi che abbiamo esplorato insieme, ridendo, confrontandoci, infamandoci. Ed è per questo che vorrei rendervi partecipi della nostra storia. Giulio ed Eda si imbatterono un giorno in un grande uomo saggio e potente che portava il nome di Roberto Giava. Lui vide in Deda, e inspiegabilmente anche in Giulio, un qualcosa di forte e oserei dire magico, e prendendoli sotto le sue ali, li instradò a quella che oggi è la trasmissione più ascoltata ed invidiata di Bruxelles. Creatività ed estro ed imbarazzo, grazie anche alla new entry Giacomo, si svilupparono innescando meccanismi inspiegabili, generando ore di pura follia, arrampicandosi tra il sogno della fantasia e l'inafferrabilità della pazzia. Tante menti si incontrarono e tante parole riempirono i minuti freschi e giocosi di 100 città. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight. Ciao, ciao, ciao Bruxelles, ciao spagnolos, ciao italiano, ciao indiano, ciao africano, ciao francese, ciao belga, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutto il mondo. Sì, infatti, italiano sta ragazza che sta diventando melanconica. Ciao thailandese, ciao giapponese, ciao americano. Ascolta, se vuoi fare tutti gli stati delle Nazioni Unite finiamo domani mattina, quindi. Vi ha voluto tanto bene, anche Giulio ve ne ha voluto, forse anche Giacomo, forse anche l'ospite che oggi qua con noi, che purtroppo sarà forse uno dei nuovi conduttori. Vabbè, ma non dico niente, è solo un'anticipazione. Ma oggi è arrivato quel momento quando ti accorgi che il tempo è beffardo, Giacomo, tu lo sai, e che le gioie sono croce e delizia. Oggi per molti e forse per tutti è un giorno che verrà ricordato come il 25 dicembre, come il 30 gennaio che è il mio compleanno, o come... Ce l'ho a caratteri d'oro sul calendario. Lo sapevo. O come il 1492. Sì, perché oggi 12 febbraio termina 100 città. Tanti nemici... Cioè, guarda che anche il compleanno di mio padre. Auguri papà. Auguri. Tanti nemici hanno cercato di prendere con le loro grinfie il mio posto. Ma che cazzo ce ne fregava che è il compleanno di suo padre? Vabbè, sì, come ci tenevo, ma che cazzo gliela chiama? Chi è questo qua? Chi l'ha fatto entrare soprattutto? Presentati! Nome? Francesco. Anni? Beh, non si dice. Cosa fai? Mantenuto. Perché? Beh, lavorare fatica. Perché hai quella maschera da scream? Ah, non è la tua faccia. Scusate, ho lasciato l'accetta dall'altra parte. Tanti si sono finti amici per avere il mio trono, ma il destino a volte non ha senso. E forse qualcuno che già fa parte di questa trasmissione verrà qui al mio posto con il mio microfono. Chi lo sa? Alla stessa ora. Chi lo sa? Allo stesso giorno. Chi lo sa? Parlando, poverino, disco rotto. Parlando di sesso e delusioni. E a questo punto avete capito di chi sto parlando. Per la delusione o per il sesso? Perché delusioni riferite al sesso, quindi. No, perché abbiamo entrambe le parti. Se vogliamo essere, se vogliamo essere concisi, abbiamo sia le delusioni Parma sia il sesso Milano. Ah, allora quell'uomo con la faccia da scream viene da Parma. Una voce inconfondibile. E quindi cominciamo proprio con Parma, perché ricordo le città, perché noi in questi sei mesi, io e Giulio, che in verità siamo innamorati, ci siamo sposati segretamente. Non dovevi dire questa cosa. Ci siamo avventurati per il nord e il sud dell'Italia, perché ci piace sempre vivere nuove emozioni, nuove avventure, perché sennò ci stanchiamo dopo un po'. Allora siamo andati a Milano, Napoli, Cagliari, Trento, Roma, Ravenna, Parma. E questo secchione che abbiamo oggi qua con noi viene da Parma, che a Parma sono tutti bravi. Parma è una città che è uno sputo, però vogliono sempre fare gli innovativi, quelli che hanno le idee migliori. Effettivamente ce li hanno. Effettivamente non, sì, ultimamente non è male. Effettivamente le idee innovative non è male. Noi la dobbiamo... città più sostenibile d'Italia. Questo premio quest'anno è straordinario. Tra l'altro, io da casa mia al centro sono sempre, cioè, non un po' giù, ma in piede fuori dalla pista ciclabile. Penso che... Ma nel senso che sennò ti investono. Come in Belgio. Quindi l'hanno praticamente allargato di marcia a piedi. Ma sono tutti come te a Parma? No, molti sono molto più belli e molto più intelligenti. Cioè, no, non volevo dire perché lì non è possibile. Non volevo dire questo, perché diciamo bello, per le ragazze in ascolto che magari sono interessate a fare un giro a Parma, che non c'è solo scream, nel senso, cioè il discorso si amplia. A Parma cosa c'è di interessante da vedere in due parole? Io a Bruxelles, quindi non più a Parma. Casa tua, come casa simulacro. Mia, casa mia. E la tua collezione di di farfalle. Di farfalle. Chiamata anche l'abattoir, chiamata il mattatoio dagli amici. Ah, che duro, cazzo! Ma no! Attenzione, qua si scopre un novello John Holmes. Sì, anche tu usi le donne, le getti come i Kleenex, come fa Giulio? No, in realtà no. Ma Giulio fa scuola, eh. Ehi là, scuola. Guarda Giulio. Come se la ride, come se sono i baffi. Giulio. Ma secondo te, Giacomo, Parma, visto che oggi noi dobbiamo eleggere Miss 100 città, Parma potrebbe essere una potenziale Miss 100 città? Ma. Beh, vuoi mettere tra Milano, Roma, Napoli? Comunque è sempre una città che qualcosina la può offrire, diciamo. Sì, che... se in viaggio tra Milano e Bologna magari ti Ma stiamo parlando a livello di donne o di... No, beh, a livello città... di città, dai. Beh, come Miss, direi che Milano Miss, direi proprio, no, possiamo metterla come Mister Milano, Mister... non è tanto città effeminata. Parma abbastanza, invece, potrebbe competere. Ma potrebbe competere. Abbiamo parlato di Parma, che era una città piccolina relativamente, no? Molto vivibile, però abbiamo parlato di una cittadina ancora più piccolina, che però è interessante. Abbiamo avuto un ospite di Macerata, è la città, e Macerata è una cittadina che ha 43.000 abitanti, però vi abita un importante mago, che salutiamo, ciao mago, che è un amico, grande mago, è un amico di Giacomo, veramente ci ha stupito con i suoi effetti speciali. È andato, pensa che è andato a Londra e ha imparato adesso la tecnica dell'ipnosi, il ragazzo, ha detto che a breve mi manderà un filmato in cui lui ipnotizza in dei bar della gente e gli fa dimenticare dei numeri, tipo. pazzo furioso. Beh, tu amico, non mi sembra dall'altra parte. Prima o poi lo arresteranno, io lo so. Esatto. Non lo sento. Ma comunque Macerata nel suo piccolo fa la sua porca figura, perché è piena di studenti stranieri che arrivano nella ridente cittadina per studiare nelle sue prestigiosissime università. Al plurale proprio. Come? Al plurale. Ah, al plurale, perché sono mille università. 800 atenei nei quali lo Stato italiano sputta una cifra di soldi perché ci sono iscritti tre persone. E poi, io mi discredito da questa affermazione. Poi la gente si stupisce, poi la gente si stupisce se vogliono tagliare i fondi. Ascolti, lei, bell'uomo di Parma, che studi ha fatto? Evidentemente non stava parlando con te. Da l'incipit si capiva. Che studi ha fatto a Parma? Scienze politiche ha fatto a Parma. Scienze politiche. Tu, Giacomo? Relazioni internazionali. Beh, è il punto in più per Giacomo. Poi, beh, ma perché, ragazzo, perché lui relazioni internazionali. Finali, quindi il ragazzo è più vecchio, perché non solo scienze politiche, ma vecchio ordinamento. Quindi la vecchiaia, il cappello bianco, la stempiatura che avanza. Quella sta ad avanzare con le tue. No, comunque... ragazzi, ma mamma mia, anche questa invidia tra maschi sembra di essere a uomini e donne. Ma e tu saresti la donna? Tu saresti la donna? Che culo! E io no, voi vi contendete a vicenda. Ah, noi ci stiamo contendendo a te. Beh, vado a prendere spada o pistola? Ma io per lei, Giacomo, ho un consiglio per te, Giacomo. Giacomo, ti devi bendare e andare a giocare a Mosca Cieca, dove passano tutti i tram qua a Bruxelles. È un gioco divertente. Sì, sì, abbastanza. Ormai tanto i tram li annuso, quindi... Ma salutiamo che è arrivato un altro ospite, quindi per i nostri ragazzi sono contenti. Sì, sì, decisamente. Perché qua, non sapevo più come fare, c'ero solo io e non stavo litigando. Sì, stavo un po' in imbarazzo, poi soltanto una donna. E quindi è arrivata Giulia. Uomini. In aiuto, un'altra donna. Giulia, come on. E che donna. E che donna. Che è sempre parmense, parmigianina, sempre da Parma. Mariosa. Stiamo parlando delle città che abbiamo fatto in questi sei mesi. Dobbiamo eleggere Miss 100 città. Abbiamo parlato di Parma, abbiamo parlato di Macerata e poi adesso abbiamo parlato anche di Messina durante questi sei mesi. E Messina era detta anche porta della Sicilia. Messina si trova, indovinello per te che Giulia, mi sembra intelligente, Giulia, Messina si trova in Piemonte, in Sicilia o in Calabria? Vai, posso dire in Piemonte che è bellissimo. Beh, posso, l'ho sopravvalutato, l'avevo sopravvalutato, è troppo bello. Benissimo. Sì, poco più giù confina col Piemonte la Sicilia. Ok, conosci? Va bene. Okay. Sì, sì. Un giorno ci passò Ulisse e Omero le decantò di Scilla e Caritia. No, smettila di fare quello che sa, l'Odissea. Ma tanto confina col Piemonte, dai. Sì, sì, beh, Caritia e Piemonte. A Messina c'è un porto che tra i più grandi e trafficati del Mediterraneo, è scalo dei traghetti per il continente ed è importante storica sede universitaria che venne fondata nel 1548. C'è una mostra che è molto interessante, è la mostra dei pupi. Che... Giacomo, cosa sono i pupi? Cos'è sta roba? Cos'è una... Cosa sono i... Dai, i pupi! Allora, aspetta, saranno. Voglio umiliarti. Tra voi due, chissà cosa sono i pupi? No, sì, sono, cioè, tipo le marionette, no? Una cavolata, non è vero. Pupazzi. Vabbè, ma io sono nordica. Pupazzi. Siamo tutti nordici qua, quindi... No, male invece... che fra noi già comunque c'è il tempo. E invece, ragazzi, Giulia vince, come sempre, le donne, grande, marcia in più, e infatti è quello che hai detto. Oh. E c'è una mostra dei pupi che sono esposti, centinaia di pupi e manoscritti di fine 800, inizio 900, teste, tele di vasta e marino, una serie di attrezzi atta alla costruzione dei pupi. Ma tu dici, ma che cavolo me ne frega dei pupi? Te? Ma direi abbastanza. Quando a Milano hanno inventato l'aperitivo, cioè a me cosa mi interessa? Più che altro, scusami, uno va a vedere il teatro da strada, quando a Milano abbiamo la Scala, nel senso, i pupi sono da teatrini. Perché stare sulla strada quando puoi entrare e andare sulla strada? Quando c'è un teatro che è il più bello del mondo, cosa te ne frega delle marionette, scusa. Tra l'altro, noi a Parma non ci facciamo mancare niente, abbiamo anche il castello dei burattini, quindi è vero, il burattini Parma 1 Messina 0, questo, esatto. Questo è veramente hai una visto? Cosa Messina è stata completamente scartata da Miss 100 città da Parma proprio. Sì, sì, sì. Facciamo un giochino, facciamo un indovinello e vediamo chi lo vince. Allora, dovete dirmi qual è l'unica vera tra queste affermazioni. Messina è la prima città meridionale italiana dove ci fu la prima manifestazione del Gay Pride nel 1999. Questa è la prima. Oppure questo devi chiedere a Francesco, io non sono esperto di sta roba. Oppure Messina nel XVII secolo fu una tra le 10 più grandi città d'Europa. Oppure l'ultima, a Messina c'è il monumento del gatto che vomita oro. Io rimango sempre più strabiliato da dove tu trovi queste informazioni, direi meravigliose, cioè non avrei parlato. Tu l'hai sentita come ha esordito, a parte la voce da segretaria Borma, poi c'era un millantato, c'era un Novalanga di millantato. Io cerco le informazioni con lo stesso principio con il quale io scelgo gli opinionisti. A questo punto allora sei bravissimo. Guardava te comunque. Guardavo già. Allora qual è la risposta giusta? Io dico gatto che vomita. Sì. Dai, ragazzi, dobbiamo dire c'è, cioè, quella giusta e quella falsa. Ma io tre, cioè, ce ne sono due vere. Secondo me Giulia ha già capito. Sì, da quel dettino super si sta scoccolando. Quel dettino super in naso che cerca la verità. In Sicilia fanno le cercando le mie origini. A Messina, a quella del Gay Pride, tu dici, Giulio? Il primo c'era, l'ha fondato lui, era sul carro con il perizoma leopardato e si sculisciava da solo. L'ha organizzato lui. Dai ragazzi, qual era la risposta esatta? Scusa, uno ha detto del Gay Pride, uno del gatto che vomita oro. L'unica possibile può essere la città, no dai, la città, dai, la più seria. Mamma mia, non ci siamo. Got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine. Bentornati a Radio Alma. Oggi è l'ultima puntata di Cento Città e riprenderà la trasmissione con un nuovo format, purtroppo con due conduttori discutibili che abbiamo qua oggi in studio, Francesco e Giacomo, Milano e Parma confronto. E allora parliamo proprio di Milano, cioè Milano, città dei trussi, degli emo, dei Giacomo, città della moda. Ricordiamo, importante nozione storica, che Milano ha inventato l'aperitivo. Nota di direzione ce l'ha data Giacomo. Assolutamente da non dimenticare insieme alla frangetta, che è un must milanese. Eh sì, E poi si bomba la frangetta col phon, avete notato? Cioè, quindi la mattina si sveglia alle 7 e non 4. Esatto. Guarda il deboscio su YouTube. Esatto, ascoltate la frangetta di Milano deboscio su YouTube, perché proprio rappresenta Milano. Giacomo, cosa ti manca di Milano? Il Duomo e San Siro. Ma dai, non ci credo. È vero, soprattutto San Siro. Ma no. L'Inter, mi manca andare allo stadio. Ma perché vincere un campionato con l'Inter? No, quello non mi manca, lo vinco tutti gli anni, da tre anni a questa parte. Siete voi che vi manca la Serie A, magari. Voi starei ben zitto. No, ci vediamo bene. Sì, sì, immagino un figato sta in Serie B. Io non so, non ci sono mai stato, dovresti chiedere agli amici Gobbi o agli amici milanisti. Quindi, molto divertente la tua vita a Milano. O andavi a farti un giro a guardare il Duomo, oppure andavi allo stadio e si vede che figa, zero. Parco Sempione. Parco Sempione. Anche il Parco Sempione. Ah, dove andavi ubriacarti, è vero. Non solo ubriacarmi. Non vogliamo. Ubriacarmi vado in colonna, vado in naviglia. Dai, Giacomo, devi dire qualcosa, perché deve accaparrarsi il titolo di Miss 100 Città. Forse può accapararsi questo titolo. Te l'ho detto, Milano punta al mister. Noi non siamo una città effeminata. No. Assolutamente. No, vai in giro, vedi dei soggetti che più effeminati di come li vedi a Milano, ma tipo te. A dire il vero, guarda che semmai è proprio il contrario. Direi, se vuoi trovare degli uomini e delle belle donne, dei begli uomini, devi venire a Milano, perché Roma... Ah, no, scherzo, anche noi ci sono delle belle donne. Però adesso, a parte gli scherzi, Milano sta là. E quelli là che arrivo come mister. Cioè, io ho visto una cosa di Milano, che c'è questa compagnia teatrale che gira per Milano, non so se te l'hai mai vista, ci sono anche video che girano su YouTube, che fanno opere d'arte con i resti di cibo avariato. Esattamente. No, fanno queste gag che ne so, che arriva la tipa e si mette a urlare in mezzo alla strada, Dopo iniziano a litigare, poi si mettono nudi in mezzo alla strada. L'ho visto su YouTube. Perché non c'ero? Non ho mai visto la strada. Sarei stato molto colpito. Fanno gli spettacoli itineranti per la città. Ma le pagano? Ma sì, sarà una compagnia divertente. Poi a Milano una volta io l'ho visto solo lì, i tipi prendono il megafono. Un giorno c'era un signore che avrà avuto 70 anni col megafono, che diceva delle robe perché l'avevano operato male, faceva una denuncia in mezzo alla strada. Perché noi ci teniamo comunque. Perché questo medico, ma chi ci tenete? Noi ci teniamo a noi stessi, ma, prima di tutto. Sì, me, myself and I, egoisti fino all'osso. Anche vedere, scusa, città di carità. C'è la finanza, c'è una fascia egoista, il profitto l'hanno mica a te. Ciccio, tu dipendi da me. Vuoi mettere Milano con il fascino di Roma? Roma, fantastica Roma, e dai, saluto gli amici di Colli Romani, di Marino, Albano Laziale, saluto Mariuccio, Ermonnezza, Smerdoc. Quanti che bella gente che conosci, Marco. Sei sicura che non siamo di Milano? Soprattutto Smerdoc. Quanti ricordi, che temperamento che ha il romano, che simpatia e che classe le donne romane. Oh, ci andiamo a infrazza! No, scherzo, però una volta in una fraschetta, che sono le osterie di Roma, ho visto una giovane Hauser che si asciugava la scelle col tovagliolo da portata. Unforgettable. Che cosa? Unforgettable. No, è veramente vero. Io ne ho visto un'altra, in realtà eravamo al mare in Toscana e c'era un gruppo di romani. Passa una ragazza bionda in topless e una bionda, insomma, di questi cori. Beato chi. Lei cosa fa? Si ferma, si volta a mezzo busto e dice: si picchia. No, si volta, li guarda, accende un sorriso e gli fa: ah, regà, c'è la banana con ketchup. Prende e va. Scatta un'ovazione. No! È stata proprio terribile. C'ho la patata con ketchup. Incredibile, cioè veramente. Io sono i miei sogni più wild. Io mi sarei messo a vomitare. I romani invece hanno apprezzato. I romani hanno apprezzato, vero? Sì, certo. È un'innovazione. Ma i romani hanno un gusto strano, no? Delle cose, cioè. Vero? Strano è la parola che possiamo lasciare andare, perché sennò scadiamo nel ma dai, a parte questo, Roma. No, a parte questo, Roma c'ha un sacco di cose proprio belle. Chi non conosce la fontana di Trevi, chi non ha sognato di andare lì con la propria ragazza e buttarsi dentro come Anita Epper e fare il bagno lì dentro, prendeva sifilide, colera, la peste bubonica, e bagnarsi, farsi tirare le monetine, le monetine giapponesi che tirano indietro. Chi non ha sognato di immergersi nella fontana e raccogliere tutte quelle monetine e portarsele a casa? Chissà che spaccano la testa. Chissà che patrimonio che c'è lì dentro. Sì, quello sì. E chi non conosce Ercolosseo, no? Insomma, tra di voi, chi non è stato a Roma? Nessuno. Forse no, a Milano non ce n'ha bisogno. Sono anche vissuto a Roma, quindi. Ah, hai vissuto a Roma? Sì. E ti hanno preso per il culo proprio? Uffa. No, li prendevo per il culo io. Ti hanno fatto sull'agguato. Il... Sono scappato. Ercicore ti ha fatto l'agguato sotto casa con il tracino. No, vivevo in mezzo ai pakistani. Stavo da dire. Vivevi in mezzo ai pakistani. Intendevate. Salutiamo i pakistani. I will dazzle. Bentornati, Cento Città. E per la rubrica Storie difficili, ecco la storia di un milanese che ha vissuto a Roma. Metti insieme un milanese, un campano, un siciliano e un calabrese nella stessa casa, in pochi metri quadrati, in un quartiere abitato da pakistani. Shakerà bene e viene fuori il mio master a Roma. Che comunque io ringrazio tantissimo questi tre ragazzi che sono stati fenomenali, mi sono divertito tantissimo con loro, ma ringrazio soprattutto i pakistani, perché senza di loro la mia provenienza sarebbe stata molto molto più acida. Loro mi garantivano le birrette fino a ora tarda nella sera, loro mi garantivano la frutta e la verdura anche la domenica, perché i musulmani se ne sbattono del giorno sacro. Tutto, l'unica cosa che non trovavo era il bue, però tanto comprare la carne in Pakistan, sì. A quel punto non mangiavo carne, quindi bastava trovare la birretta, cioè, bue, e il maiale, bastava portare le birrette, infatti, veramente, è stata una permanenza piacevolissima sotto quel punto di vista, veramente grandiosa, quartiere stupendo, poi chi conosce Roma lo sa che Pigneto è bellissimo. Ma senti, ma qua, cioè Roma, cioè te ci parli sempre, quando parli di Milano aperitivo e feste, parli di Roma, pakistani e birre, c'è qualcosa che fai di interessante nella tua vita, a parte andare a ubriacarti o... E condurre Radio Alma, cioè questa trasmissione Radio Alma straordinariamente. Avevano bisogno di un esperto in alcolici e derivati e quindi mi hanno chiamato. No, beh, io a parte questo, no, non faccio altro, a me piace zovigliarmi in questo stile di vita. Finché regge il mio fegato. Non avevamo dubbi. E tu, uomo dai capelli corti e stempiato, come dice lui, ma non è vero, infatti io dico, non è vero che è stempiato, che viene a trovarti. Non è vero. Perché tu hai scelto di essere suo amico di Giacomo? No, non l'ho scelto, non sono suo amico. È lui che ha scelto te. No, ci siamo saluti qua. Ci siamo scesi. Ci siamo scesi, siamo venuti qua io e Giulia l'altra volta. E ci siete innamorati. E ci siamo trovati qua lui. E ci siamo trovati qua lui. Quindi questa trasmissione carina, bell'ambiente. Vabbè, c'è anche Giacomo. Ormai fa parte dell'arredamento, se lo trovi. Esatto, qua. Lo prendi, sì. Ma io avrei una cosa da dedicare a Giacomo. Grazie, cara. Prima di andare via. Giacomo, questo elemento non definito, pungente ed ironico, fuori luogo ed imbarazzante. Il computer alle seconde però. Ma sempre a suo agio, sempre pronto al surreale confronto. Pensa di aver inventato l'aperitivo, pensa che Milano è la città dei balocchi, pensa di vederla lunga, ma abbiamo capito tutti che sei solo un caso irrecuperabile. Milanese convinto, playboy da osteria, un giorno lo puoi incontrare nei locali più squallidi, vedendolo ubriaco che balla una musica country. E il giorno dopo incontrarlo nel locale più in, con la frangetta, mas milanese, occhiali bianchi e tanta voglia di dire cazzate. Oppure puoi trovarlo ad un rave abbracciato con un punk a bestia, urlando frasi anarchiche, delle quali non conosce l'effettivo significato. Infine lo vedrai ad una cena seduto tra Barroso e Silvio, conversando di donne e politica. Giacomo è così, un gran figlio di buona pip! Mi sembra un'ottima descrizione, mi hai quasi commosso. Non so veramente come rispondere a questo tuo gesto d'affetto. Non devi. Devo dire che... Tra l'altro mi piace molto il playboy d'osteria, cioè che le prende ubriache. Certo, no, è il trucco migliore, lo sanno tutti. Non possono resistere. No, grazie, okay. Grazie mille del tuo coccodrillo, tra virgolette. Il coccodrillo al contrario, esatto. Sei tu quella che te ne vai, però è ovviamente un onore, diciamo, rientrare nelle tue scarpe numero 38. Ah, ok. È la piedino fine. Piedino fine. Cenerentola. Mica 45, mica 45 come la tua ragazza. No, ragazzi, le barzellette da osteria qua non le vogliono. Lo sai quella che cosa? Cosa devi raccontare? Ma passiamo a Giulia. Giulia, no, che rappresenta... Le barzellette d'osteria. No, barzellette. Vuoi raccontarci una barzelletta? Ma non volevo. È volgare? Ma no. No, è fine. Ma Giulia, che rappresenta Parma, donnina educata e spiritosa, nasconde una doppia vita inconfessabile. architetto esportato a Bruxelles, la nostra piccola Giulia è sempre gentile e disponibile. Una creatura rara e delicata durante il giorno, ma quando la notte cala, si trasforma girandosi per la capitale europea come una vampira famelica. Non ci stupiremmo se fosse una supereroina, tipo Catchwoman. E quindi tu, uomo, che incontrerai tale parmigianina, non farti ingannare dai suoi modi così affabili, perché potresti pentirtene. È attaccata alla sua città da un cordone umbilicale invisibile, e pur di tornare alla patria rinuncerebbe al suo lavoro di architetto per andare a pulire i cesti all'Olenico, noto locale alternativo di Parma. Io tra l'altro tremo al pensiero di Giulia vista tutta in lattice con la frutta, che fa secondo me è vero, deve essere aggressiva. Giacomo, te un cassonetto te lo vedi vestito, io solo che mi, so, solo che mi chiamavano tanto gentile e tanto onesta, pare. Ma hai capito, quindi il profilo un po' rispecchia, sì, no, ci siamo, quello che ho detto, tutto piazzato rispecchia abbastanza, attento. Tra poco torniamo e sapete di che città parliamo. Uè, uè, uè! Oh, cazzo! Maradona! Napoli. Oh, these people, they attacked our freedom. Weapons, technology and hate. Lives were stolen without warning. Brothers, sisters now erased. Oh, these are our days now. These are not the same now. Not the same. Oh, oh, oh, these human beings are dead grass. Their greed is contagious. Now the world it waits. Diceva Luttazzi, alla fine del XX secolo a Napoli c'è stata una guerra dei rifiuti e i rifiuti hanno vinto. Ecco, introduciamo questa città, Napoli. I napoletani sono creativi, non parliamo sempre di questi rifiuti, ci hanno temperamento. È difficile che ti annoi con dei napoletani, sempre la battuta pronta. Uè, uè, sono calorosi con tutto sto ingegno e hanno tutta sta fantasia, l'arte del sapersi arrangiare. Ma cavolo, vivete, cioè, bruciano la moneta in un centinaio di modi diversi. In un modo o l'altro fa sempre sparire il seppellisto, la piazza sotto l'acqua, sotto le cospargono di Chanel numero 5, così poi si sente. La mettono nelle scuole. No, questa è il milanese. milanese al massimo. Tutto fuorché così l'ottavo valorizzatore. Il milanese che passa in mezzo ai rifiuti spruzza Chanel numero 5, mentre il napoletano è la uè. E devo fare la scultura anche a fianco ai Milano fanno, spruzzano Chanel numero 5, poi i rifiuti diventano una scultura postmoderna. Come il una risorsa che è un peccato buttarle via. Chi è che è stato a Napoli tra di voi? Io non ci sono, no, mai. Non ci sono mai. Tu sei passato col tuo jet privato, sì, sono però... andato sopra. Io però ho guidato sulla costiera amalfitana con i finestrini aperti e con gli specchietti dentro, perché sennò ma schiavi spaccare. Però sono 60 km di grande brivido. Ragazzi, dov'è che vedete quattro persone su un motorino? Cioè è anche divertente. Anche in Puglia, anche in Puglia. Io non ho visto in Puglia, ne ho visti tre. Sì, è vero. Ma c'è tre Sicilia. E un bambino dietro anche con la skateboard. Che copioni, sì. Hanno copiato i napoletani, perché sono loro che hanno cominciato. Saluta gli amici di Puglia. Ciao Puglia. Poi sapete che andate dentro il bar, il napoletano vi fa il caffè, vi mette lo zucchero il barista e vi gira anche. Cioè ve lo dà già pronto, così. Magari tu lo vedi amaro e dici ma che cavolo. Io ero vicino a Roma, c'è un posto famoso che fa il caffè così. Tipo il napoletano, chiamato. No, non mi sembra che si chiama napoletano, comunque fa spettacolare. Beh, se bisogna riconoscere dei meriti napoletani sono proprio appunto il caffè e la pizza intoccabili. Vabbè, direi, tu l'hai mangiata quindi. No, non sono. Ah, qui? Sì. Io invece quando sono andato a Napoli, cioè in passato vicino a Napoli, quando ho guidato sulla costiera amalfitana, arrivo in un posto, gli guardi, andavo di fretta, arrivo al bar, mi faccio al bancone, mi faccio un caffè, siediti. Guardi, vado un po' di fretta, siediti. Vado subito a sedere. No, questo è siciliano. Forse aveva capito che ero un del nord, quindi magari aveva paura che non capisci la lingua. No, non penso che l'abbia capito. Mi ha parlato in inglese. Siediti. Quindi ti ha detto siediti e non sa che condanna si è dato, perché ha iniziato a parlare poi. Non ho iniziato a parlare, ovviamente eravamo ancora lì. È stato fortunato il barista allora. È stato molto fortunato. Ma la smorfia napoletana è conosciuta, dai, in 77 forse in tutto il mondo, sì. Direi, no? Per esempio, voi se fate un sogno, lo abbinate a un numero. No, aspetta, 77 sono le gambe delle donne. 77 le gambe delle donne. Ha paura? 90. Bravo. Vabbè, cavolo, la BC. 77 le gambe delle donne. Cioè, fin da quando hai due anni le sai queste cose, ma lì hanno proprio centinaia di numeri, ad ogni numero c'è un significato. Sì, sì, è vero. Perché tu, se nel sonno, cioè, ti può venire un mucciarello. Sapete che è un mucciarello? Non lo sai nemmeno, ma non lo sai nemmeno tu, ce l'hai scritto lì. No, ci siamo stati insieme, abbiamo avuto una love story. Tu e mucciariello. Io e mucciariello. Praticamente arriva. Cos'è, un muro? Arriva. Senti Giacomo, ti ho già dato un consiglio prima. Ragazzi, cioè io non posso portare avanti una trasmissione con due soggetti del genere. Io non oso immaginare quando voi due condurrete una trasmissione. Potrebbe anche esserci un terzo incontro. Ah, a proposito Giacomo. Potremmo cercare. No Giacomo, la redazione, Giulio, te lo sai, è arrivata una segnalazione dalla redazione, no? La segnalazione su Giacomo, me la confermi? Te la confermo. No, perché è abbastanza grave questa cosa, dobbiamo dirla per il rispetto del programma. Chiaro. Allora, comunicazione di servizio. Giacomo, abbiamo saputo che ti spacci come direttore di tutta Radio Alma e va in giro per locali reclutando giovani donzelle avvenenti, facendo credere loro che possono fare un provino per entrare a Radio Alma. Giacomo, la cosa è abbastanza grave. Si chiama showbiz, you know? Sai cosa significa? Io trasformo tutto in business. Lui di Cologna Montese, là di fiamma. Sì, peccato che non riesci solo con te stesso. Perché invece veramente... sì, guarda dove sono. Vabbè, allora sei veramente arrivato. Sono a Bruxelles, lontano da casa, sopravvivo. E poi Giacomo, non puoi dire, non puoi farti chiamare, addirittura ti presenti come dottor Giacomo... il cognome e arrivano le email di queste ragazze, perché tu hai dato l'email della radio. Sembra il mio, io sono dottore, triplo no, dottore. Dai, ha scritto: dottor Giacomo, sono Laura, ti ricordi, ero quella che hai incontrato nei bagni del centro sociale a Molenbeek, sono disponibile per quel provino ma a mezzanotte mi sembra troppo tardi. Giacomo, invece quello è l'orario in cui l'ispirazione viene fuori. Anzi, e quando faccio, fai radio da casa, no? Infatti, per registrare la puntata. Certo. Faccio un appello ufficiale a questo punto, visto la prossima futura departita di una donna, non mi sembra corretto nei confronti delle nostre ascoltatrici femminili rappresentare l'Italia soltanto con due pur bellissime voci maschili, avvenenti. Abbiamo bisogno di una valletta, quindi aperte le iscrizioni, sì, ovviamente. perché comunque a parlare per un'ora di sete, c'è cioè un caffè, ci vuole una che ti porti il caffè, l'acqua, esattamente. Io spesso arrivo con le scarpe sporche, non so, ma che pulisca l'ingresso. Io vengo in bicicletta, quindi comunque. Allora, l'email della radio la lasciamo, è radioalma@gmail.com. Se volete proporvi, se avete il coraggio di tenere testa voi, siete masochiste e volete venire qua a fare le vallette di... Sì, riferitevi a casa mia a partire da mezzanotte, stasera, domani. Sì, poi ci sono anche gli extra, ovviamente, straordinari. Però ma poi ne parliamo in privato. Aspettiamola, ma ragazzi, fatevi valere, che questi qui li pestate quando volete. Sì, sì. Un'altra ragazza dove ti ha scritto: buongiorno direttore Giacomo, volevo sapere la via esatta del motel dove vuole farmi il provino. Giacomo, no, no, così anche non va. Anche quelli sono... nel senso, sono test psicologici. Deve dimostrare di sapersi adattare. Esattamente. Perché non è che puoi fare la figa e arrivare qua e... tappeto d'oro. Come hai fatto te quando sei arrivato qui? Ma in ritardo, tra l'altro. In ritardo. Beh, certo. E tirandosela. Certo, la persona importante arriva sempre in ritardo. Occhiali da sole anche se piove e in ritardo. No, è vergognoso. Ma stiamo parlando di vere e proprie prove di sopravvivenza, perché reggere noi due per un'ora... Scusa, parla per te comunque. Mi sono soffermata sulle tue immagini con gli occhiali da sole mentre piove a Bruxelles. Cioè sempre, lui se li aveva tatuati. Occhiali da sole bianchi. Bianchi. Quelle ringhe davanti che vanno di moda adesso. No, no, no, no, sono proprio bianchi da sole. No, ma li abbiamo già visti. Sì, chi mi ha visto fuori la sera lo sa. Che fortuna. A Giulia è sconcertata. Sì. Giulia, tu l'hai visto? Io ho una foto. Addirittura. Giulia, lo dobbiamo pubblicare sul sito. Ovviamente. Ragazzi, però dopo diventa abitato a minore di 18 anni, è un rischio. Per l'ultima, sì, potrebbero rimanere traumatizzati. Sì, per l'ultima puntata metteremo la foto di Giacomo con gli occhiali da sole. Uno che scoop. La sera. Uno scoop. In discoteca. Ragazzi, se volete infamare Giacomo, scrivete sempre a radioalma@gmail.com per ascoltare le puntate, vedere le foto, farvi due risate. Andate su www.radioalma.blogspot.com, cliccate su 100 città, vengono fuori tutte le puntate e potete ascoltarvele in tranquillità. Vi aspettiamo per la selezione. Volevo fare una dedica anche a Giulio. Che dire di Giulio? Un soggetto indefinibile, nel suo mondo incomprensibile. A volte esordisce con frasi fuori luogo, ma altre volte ti stupisce con osservazioni intelligenti e originali. Viene da Magiera, un paesetto in provincia di Ravenna, ai confini della realtà, dove è cresciuto a pannocchie e giuggiole. Ha un fascino nascosto che spesso circuisce il cuore di giovani donzelle. E forse io non ho capito nulla di lui, o forse lui non capisce nulla in generale, o forse io lo odio e lui odia me. Ma il nostro affetto è divenuto fraterno, un rapporto di amore-odio. O forse io lo amo e lui ama me, ama tutte indistintamente, perché ha un cuore di ghiaccio, ma pur sempre un cuore. C'è mica quella musichetta come tipo la Panicucci quando faceva DJ dedica. Allora dedica a Giulio, qui mi sono scoperta un po', eh. Io invece rimango distaccato come al solito. Mamma e dico mia. Che l'unica cosa che non abbiamo sono le giuggere. ti stimo. Ma le pannocchie? Le pannocchie sì, dai. Le pannocchie, pannocchie sì. Prendilo come una gran prova d'amore. Allora ricordiamolo così. Una pannocchia è una gran prova d'amore. Con una pannocchia in mano che corre nel prato. Pannocchie burro, diciamo. Come Giorgi. Ecco. Giulio che corre felice sul prato. Bello. Ma a proposito di prati e di spazi verdi e di pannocchie mi viene in mente una città del nord nord nord, che è Trento. Chi è che mi sa fare un bel dai non vergognatevi, cioè se volete condurre una trasmissione dovete non dovete conoscere vergogna. Hai davanti ai tre della pianura padana, dai, vai tre tutti assieme, tutti e tre, due e tre. Siamo giocati il posto in 30 secondi. Un momento penoso radiofonico. La radio sono colati a picco. Chiediamo scusa. Ci sono manifestazioni che vogliono la nostra testa fuori di qua. Comunque di Trento dobbiamo salutare Ioannes. Saluto Ioannes. Ti ricordi Ioannes, Giulio? Perché non è abissino, è di Trento, non è abissino. Che cazzo di voce hai fatto? Ioannes era tedesco e quindi parlava tutto così, con l'accento, con la raffreddore, parlava così, il suo accento, perché c'era la raffreddore, c'entra Trento con la Germania, e abitava a Trento perché dirigeva un centro musica. Scusa, te che cosa te ne frega se uno della Germania vive a Trento? No, ma nel senso, con l'accento a Trento con la Germania, ma io a dire ai trentini che parlano l'accento tedesco, ma li allora, confondi con i bolzanesi, si arrabbiano. Allora, prima di tutto è Johannes, simpaticissimo, ciao Johannes, abbiamo intervistato Johannes perché lui dirige insieme a un altro trentino un centro di musica che è molto conosciuto, e se andate sul sito del comune di Trento potete ascoltare le canzoni dei giovani gruppi che sono in questo centro di musica praticamente. Tu Giulio, che mi ricordo che Johannes ti rimase molto impresso, vuoi dirgli qualcosa? Io voglio ringraziarmi per aver dato un senso al 2008. È vero, è vero. Penso che tutti quelli che l'hanno ascoltato condividano. È rimasto nel cuore. Sì. Cosa, un pozzo di scienza? Grazie Johannes, grazie veramente. Tanto quello che tu non sarai mai. No, ma io, a me non interessa se è un pozzo di scienza, infatti io punto su altre cose. Oh, stava scherzando. Come, a volte come il Playboy d'Asteria, ma è una cosa molto migliore. E cosa poi molto abbiamo più utile la vita. Citiamo un attimo l'ultimo, perché stiamo per finire la trasmissione. Le ultime città, abbiamo parlato di Ravenna, che è la mitica città che è dove siamo nati praticamente io e Giulio, città dei mosaici, sì, con le pannocchie eccetera, città dei mosaici, è stata due volte capitale dell'impero bizantino, e poi ci sono dei monumenti molto belli, andatela a visitare perché non ve ne pentirete. Poi Cagliari, anche qui il panorama musicale è davvero sorprendente, e vi consiglio di ascoltare gli Ascra che cantano in dialetto sardo, è veramente molto molto bello il loro stile musicale. Ti li ricordi, Giulio? Quanti ricordi con gli Ascra? Quanti ricordi? Quanti ricordi con quel sardo che ha chiamato, che voleva che il sardo diventasse lingua conosciuta come lingua ufficiale? Sarebbe bello, in effetti. Questi erano tempi in cui Radio Alma era veramente una radio indipendente. Sì. Davo parola a tutti. Sì. Tutti. Sì, io me lo ricordo ancora qui il suo accento, ti ricordi? Aio. E tu hai proposto che ci sia un interprete sardo al Parlamento Europeo, ti ricordo. Davvero? Cioè, i gaelico e i sardi non saranno mica figli della serva, voglio dire. È vero. Cioè, sì, perché forse i gaelici fanno parte di una lingua ufficiale. Forse ti eri ubriacato. Cannonau. Ma chi sa? A Cannonau, esatto. È vero che abbiamo fatto quella festa prima di iniziare. Aperitivo sardo per restare in tempo. Giulio, quanti ricordi? Quanti quei momenti non ci saranno mai più. Ma Giulio non si ricorda niente perché era ubriaco. Perché era ubriaco, è vero, è vero. Ma siamo arrivati in chiusura, purtroppo siamo arrivati in chiusura, e volevo spendere qualche parola anche per questo giovane avvenente del quale Giacomo è geloso. Sì. Che è Francesco. Francesco, personaggio curioso dalla parlantina facile, così facile che ti daresti delle frustate mentre cammini sui carboni ardenti e piove acido pur di non ascoltarlo. Sa tutto, è un pozzo di conoscenza, ama il confronto anche se parla solo lui, e le donne le conquista così, esasperandole e portandole a baciarlo pur di tappargli la bocca. Purtroppo non dice cazzate, sono cose vere e storiche, ma a France non ce frega un cabip. In quelle mani dell'osteria, come si dice. No ragazzi, cioè, questi due uomini sono dei soggetti incredibili, che se riconoscete per strada li evitate, ma in radio fanno la loro porca figura, devo dire. Porca soprattutto. E dei miei parenti, dei miei amici mi hanno chiesto, ma quello lì che fa finta di essere quello di Milano, ho detto no no ragazzi, lui non quello fa che va a Forte dei Marmi imitando l'accento di quelli lui di Milano. Lui ha fatto proprio così. Ma chiudiamo questa trasmissione, chiudiamo, ognuno deve dire una frase che è un po' quello che rispecchia per lui un po' la vita, no? La chiudiamo così, diamo delle perle di saggezza a queste persone, no? Allora, innanzitutto dedico quest'ultima trasmissione a Marta, e mi rivolgo alle tante persone che studiano a Bruxelles o che comunque stanno facendo un'esperienza fuori di casa. Vivere all'estero dà emozioni forti, ma non sempre facile, ma dovete distrarvi e ridere e non pensare a nulla, perché non sempre bisogna capire e non sempre bisogna comprendere, non sempre bisogna crescere. Allora, tu che sei indecisa e non sai cosa fare, prendi coraggio e fai questa scelta. Giulio, vieni a fare la valletta. Allora io prendo scelta. Giulio, ti amo, e tu che ti accontenti, non farlo, puoi trovare di meglio, capito Giacomo? E invece tu che non sei mai contento, Francesco, dovresti capire quanto vali. E tu Giulia, Lasciati andare anche tu, apriti. Ciao. Quindi ragazzi, voi date la vostra perla di saggezza. Ragazzi, prendete la vita di petto e se esiste donne prosperose, beh, allora ci penso io. Poi. Sì, i provini sono aperti. Riciclate. Giulia, tu ti senti di dire qualcosa, di renderci partecipi di qualcosa? No, non lo so, mi avete preso la sprovvista. Tipo... Io lascio i testimoni a loro Giulia. Due perché anche io torno a casa e... E perché Parma e Popù. Parma grande. Bellissimo, bellissimo. Allora la trasmissione finisce qui. Ragazzi, io non so in che mani vi lascerò. Io spero di lasciarvi in buone mani e quindi ci salutiamo per sempre. Vi ringrazio a tutti, grazie Bruxelles, grazie Roberto Giava, grazie Giulio. Vi lascio a giro di boa e adesso smetto di parlare perché mi sta venendo da piangere. Ciao. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle.